Jack Dempsey non era certo un divo. Diceva a tutti che era troppo cattivo, ma il suo sinistro era la mano del Signore, che porta sangue, porta lacrime e dolore. Ora Dempsey è solo un vecchio suonato, alla fine pure lui l'hanno pagato. Aveva capito le regole del gioco e ha pure vinto, ma è durata poco. C'è una cosa che non riesco più a capire, perché le cose belle devono finire. Ce ne son mille a cui posso rinunciare, e proprio te dovrei lasciare. Ma se era un gioco allora l'ho perduto, dirla tutta m'hanno proprio fottuto. Se non c'è un cane che mi creda non fa niente, però è scema o cattiva la gente. Ma io che cosa dovrei fare? Non dico niente, non ho niente da dire. Se è così che doveva finire, se è così che è andata un'altra volta, non venirmi poi a dire che ti importa.